24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Vogliamo elettori, il bagno alla turca! Goldrake! Oh, non sono io, c'è Goldrake! L'ha detto Renzi! Io ci provo e se non ce la faccio, chiamate Goldrake! Contro i mostri lanciati! Ricordate, grande Goldrake, mamma mia. Oh, ma non si sta allargando un po'? Ma come, se non ce la faccio io chiamate Goldrake? Ma dai Renzi, adesso non esageriamo. Morirà, invincibile sei, perché è alta luce che combatte con te dentro te. Cioè adesso Goldrake, non so, almeno so, ci vorrebbe Gigrobo d'acciaio, Capitan Harlock, ma... La labarda spaziale. Paola Saluzzi, te la ricordi la labarda spaziale? Ma ti pare normale che uno dica, se non ce la faccio io, chiamate Goldrake? Oh, ma chi sei? E dai, buongiorno. Tu hai citato l'elemento essenziale, Capitan Harlock. Esatto. Perché più... è un po' più, a parte che è bello, più pirata, ma dire, un po' più pirata, è un po' più umano, però Goldrake rende l'idea, dice, ce la fate alla barda spaziale, alla barda spaziale. È l'unica cosa, alla barda spaziale, per salvare l'Italia, in Parlamento urlando alla barda spaziale. Mamma mia, ragazzi. Bene. Buongiorno caro Milan. Buongiorno, questo è 24 mattino. Fammi dare il buongiorno anche a Miriam Lucchetti, al nostro Carmelo Lauricella oggi in regia. Il nostro alpino è stato rottamato da una sciamannata spaziale. Vabbè. E poi possiamo aprire subito il Parlamento, così saluto anche il nostro direttorone. Direttorone. Il caffè volentieri a tutti quanti. Alla barda spaziale, mamma mia. Il nostro direttorone è Luca Dini, il direttore di Vanity Fair, eccolo qui, buongiorno. Che bello Goldrake. Che bello, te lo ricordo. Ma tu eri più per Goldrake o per Gigrobo d'acciaio? Io ero strano e guardavo Gigrobo d'acciaio. No, io Goldrake. Goldrake. Però suggerirei anche Furia, se non ce la fa Goldrake. Furia, cavallo del West, no? Esatto. Vabbè, ma queste sono cose da maschietti. Tu Paola Saluzzi cosa guardavi? Lady Oscar. Dico Capitan Harlock. Goldrake, come dire, era un po' fisso con la nell'interpretazione. Sì. Come che non avesse sì, non aveva queste espressioni facciali, no? Invece Capitan Harlock, che pure lui servo vedi, come un paracarro, in quanto a espressioni del viso, però almeno aveva i capelli. Ti piacevano più i cattivi e dannati, un po' pirata Capitan Harlock, un po', no? Però sai com'è il fascino? Il fascino del cattivo, eccolo lì. E invece Luca Dini, Goldrake, vabbè, ha detto così, ma veramente, ma io non ci potevo credere. Adesso stiamo vedendo, insomma, l'ha detto ieri a Porta a Porta. Ma come, ma Luca Dini, ti pare normale che uno dica, se non ce la faccio io? Vabbè che a lui piacciono, no, queste metafore, piacciono, chiamate Goldrake. Appunto, aspetto Furia. Aspetto. Però sì, a me sembra normale, voglio dire. È il suo modo di comunicare, è un modo efficace. È il suo modo efficace, sì, però sembra un po' strano, un po' esagerato, cioè dopo di me Goldrake, come dire, siamo all'ultima chance, no? Sembra... un po' esagerato, però c'è da dire che prima di lui neanche Goldrake, ecco, perché questo... alla fine... questo un po' è vero. Non ha fatto niente, sono tutti a dire, ah, ma hai parlato con Berlusconi, inviterei tutti i saggi a spiegare che cosa avrebbero fatto loro per raggiungere un risultato che come tu facevi sempre notare, cercavamo da mesi, sì, che non abbiamo, che non abbiamo ancora, non abbiamo ancora trovato, anzi lo ricordiamo. No, infatti il tema è questo, perché Renzi, sapete che ha lanciato questa risposta a me su Twitter, è la settimana decisiva, questa. Paola Saluzzi, che dobbiamo fare? Ha vinto la scommessa Renzi o no? Perché non è che abbiamo una nuova. Ma insomma, però non è che abbiamo una nuova legge elettorale, che vuol dire? No, per quello bisogna ancora aspettare che la labarda spaziale arrivi più dal cielo. Sì. Però abbiamo è quasi tutto cucinato, è quasi tutto pronto. Allora, mettiamola così, stiamo sentendo il profumo dalla cucina di qualcosa che tra poco sarà messo in tavola. Quindi ci siamo, aspettiamo, chiaramente vediamo. Aggiungo, dobbiamo ringraziare Renzi perché ci offre sempre l'opportunità di un titolo. No, questo sì, questa di Goldrake è fantastico. Il cucchiaio. Insomma, queste cose. No, seriamente parlando, se tutto va bene, siamo di legge elettorale fatta nel nostro paese e quindi bene. Bene, ma insomma, adesso oggi inizia l'iter. Sei molto ottimista come sempre, eh? Inizia l'iter alla Camera. Se va bene, ce l'avremo a maggio. Ecco, prima avevo detto che per il 30 settembre l'avremmo fatto. Sì, il 30 ottobre, non ricordo più. Tu avevi detto il 30 ottobre perché l'aveva sentenziato il Presidente della Repubblica. Allora, quando parla il Presidente della Repubblica, Paola Saluzzi si mette subito sull'attenti, spirito militare. Non aveva detto l'anno, dai, non aveva detto l'anno. Infatti, forse a maggio. Maggio ce la fai, Paola. effettivamente ti mancava 2014. Sì, mi mancava il 2014. Comunque, grazie direttore, grazie. Renzi regala i titoli, ma c'è un altro che regala i titoli, che è Cuperlo. Allora, io dico, oggi almeno 5 quotidiani, ma importanti, il Corriere, Repubblica, La Stampa, Il Messaggero, aprono su queste dimissioni di Cuperlo, che subito ieri io quando ho visto Crozza, insomma, c'ha ragione Crozza, Si è dimesso Cuperlo? Che cazzo se ne frega? Come? Sai, Giovanni, come un po'? Sei durante la Ida? No, se se ne fosse andato il terzo armigero dell'ultima fila. Ma chi se ne frega? Non te ne accorgi, no? Te ne accorgi solo agli applausi quando tornano in scena a tutti, tu applaudi e dici, ma che cos'è? Ah, c'è un buco, ma chi è? È Cuperlo, se n'è andato. Ecco. Ma fino ad allora? Fino ad allora, non so, si è dimesso, no, ma massimo rispetto per Cuperlo, ci vorrà bene molto. Però Paola Saluzzi, si è dimesso il presidente del PD Cuperlo, e vabbè. Mettiamola così, era nell'aria, e lo sapevamo tutti, lo sapevano sicuramente anche loro, c'è stata una discussione ulteriore, ecco, se dovessi, allora, leggendola in forma da spietata ottimista, c'è stata un'ulteriore discussione, questa è la democrazia e ora Cuperlo guida un'altra, già lo faceva prima, insomma, ma un'altra compagine all'interno dello stesso PD. Dispiace veder discutere e litigare le persone, ma succede in famiglia. Vabbè, perché ma non sì. Farlo succedere anche in ma infatti, ma chi? Ma poi sì, io non è che dico chi se ne frega, perché vabbè, no, è il partito no, più importante, ma pare normale che insomma ci sia tutto questo dibattito perché se ne va il presidente del Partito Democratico. Non so, tu Luca Dini. Diciamo che ecco, non è la notizia del giorno nel mondo, ecco, non credo che stiamo tremando palazzi, no, assolutamente. Sono d'accordo con te, è un po' assurdo il rilievo che è andato una cosa che era decisa e sì, tra l'altro il Corriere della Sera addirittura scrive che lo aveva deciso ancor prima di iniziare la riunione, che poi è finita così con delle parole. Poi adesso invece c'è chi dice che quella di Renzi è una strategia, provocare per mandarli via. Si parla di scissione e vabbè, che dobbiamo. Ma no, ma sta ritornando anche un buon rapporto con Fassina, su anche lì un po' si con Fassina. Si litiga, si discute, sono ragazzi, ecco, solo che c'è di mezzo tutto il come dire, la gestione del paese, in parte. Quantomeno, essendo uno dei principali partiti, ma l'importante è che le cose vengano fatte e bene. Comunque, con questa logica della nonna papera andiamo avanti. Ecco, esatto, il tema è, ma che secondo voi, faccio questa domanda, che carattere ha Renzi? Perché oggi c'è tutto il dibattito, no? È decisionista, Cuperlo pare che abbia detto è un arrogante, gli interessa solo comandare. Claudio Martelli fa un'intervista al Quotidiano Nazionale, dice è come Craxi, decisionista, arrogante, schietto. Insomma, che tipo di carattere è, ma soprattutto che tipo di personalità serve in Italia e se serve una personalità del genere? Luca Dini, siamo abituati o siamo abituati a quelli del dialogo perenne, poi nessuno decide niente? Che ne pensi? Siamo abituati a quelli del dialogo perenne e ci lamentiamo quando non decidono niente. Quindi io dico che fa quello che serve nel suo ruolo per ottenere dei risultati. E per ottenere dei risultati a volte ci vuole decisionismo e anche un pochino di arroganza, purché non sia gratuita. Arroganza vuol dire aggressività, che è diverso, ma non l'aggressività gratuita. Hai sentito Paola? Il direttore ci fa capire come decide in redazione, cioè a un certo punto. No, ma io sono d'accordo, no? Cioè, direttore, ci vuole un momento in cui uno, se è messo lì, deve decidere, anche magari con toni bruschi, perché sennò dice io tutti i giorni me la vedo. Stabilito che ho da fonti certe notizie che Luca Dini sia, e qui lo dico e lo dichiaro, uno splendido direttore. Attenzione, le fonti di Paola Sanzi, esatto, perché è una persona speciale Luca Dini, prima di tutto, e quindi di conseguenza trascina questo essere speciale anche nel suo ruolo di direttore. Sposo in pieno quello che ha detto. Allora, Renzi, è chiaro che in questo momento suoni, qualcuno lo definisca fino anche arrogante piuttosto che, ha quel carattere. Dico quello che si disse di una meravigliosa, non faccio paragoni, ma una straordinaria attrice come Anna Magnani: ha un cattivo carattere? No, aveva carattere, è un'altra cosa. È chiaro che questo carattere va messo poi alla prova, oserei dire tutti i giorni al banco di prova, nel vedere se poi le operazioni riescano. E certo, non riescono da sole, non fa il mandrake, fa Goldrake, Goldrake. Poi dal carattere bisogna passare all'operatività. In questo momento sta dimostrando di avere sostanzialmente il carattere che vediamo. Ecco, una cosa è buona, sì. Non mi sembra che ci siano paludamenti, mi sembra tutto molto trasparente. Che dicevi? No, ma che dicevi, Luca? No, dicevo a tutti quelli che si lamentano, chiederei: ma perché non avete votato Cuperlo alle primarie? Questo effettivamente anche questo. I numeri li ha. Sentiamo a proposito di Renzi, no? Che dice c'è il mal di pancia, e noi andiamo avanti. Ecco, questo ho messo un mese a portare tutto l'arco costituzionale a una riforma straordinaria e storica. Non è che se dentro il PD ci sono, come dire, dei mal di pancia, dai. I mal di pancia sono comprensibili e i miglioramenti sono comprensibili. Se uno è più bravo di me e trova un accordo migliore, che bello, io sono felice. Ma non è che ci si blocca per le dinamiche interne di corrente, eh? Insomma, Goldrake. Beh, questo è giusto. È così, è Goldrake, è Goldrake. Goldrake! sì, è Goldrake, è Goldrake. Se non vado bene io, chiamate Goldrake. Questa è l'unica soluzione. Io non ho ancora fatto in realtà la domanda del giorno a Paola Saluzzi, perché mi sono svegliato con questo, ho visto questo titolo sui giornali e quindi te la devo fare. Volevo fartela all'inizio, prima di parlare di queste quisquiglie di legge elettorale. Ma tu lo avresti perdonato? Tu lo perdoneresti? Parliamo di Monsieur Hollande. Vedi che hai capito. Perché Valérie pare che sia pronto a perdonarlo. Ma chi se ne frega? Ma basta. Tu sei una donna, in queste cose avrai qualcosa da dire. Insomma, c'è il tema, le donne, il perdono, il tradimento. Secondo me, chiedo scusa, dipende anche tutto dal soggetto che hai davanti. Ma noi non lo conosciamo nell'intimo. Non lo so, soltanto che la devono ha da finire la storia. Ma che barba! Con questa storia d'Oltralpe, con questa che si sente male, perché è vero, perché è finto, casca per terra, glielo dicono i suoi avvocati, non si sa. Quell'altra che fa la barricadina, quello in mezzo che fa sempre il budino, come dice Gramellini, basta, ma chi se ne frega, ma ridono sempre delle storie nostre, ma rompessero meno le scatole con le loro. Ho capito, ma, tu, ma rimane, oh, rimane la questione, tu lo perdoneresti no, o no? No, no, gli avevo ecco, messo le valigie fuori della porta. Le valigie, fuori dall'Eliseo le valigie, ma dai. Se, appunto, è lì e lì la storia. Se lui facesse il direttore della posta a, a Wagny-sur-Mer, che non esiste, a voglia sì, di chiaro, è chiaro. No, ma adesso c'è questa cosa, perché vorrebbe perdonare, vorrebbe perdonarlo, pare, per andare da Obama, perché deve incontrare Obama. E ci credo, perché deve adesso invece c'è, c'è Hollande, c'è Hollande che vorrebbe scaricarla. Luca non si capisce niente, Luca. Beh, capisco che insomma non è che ti capita tutti i giorni di andare a Casa Bianca, penserà, ma proprio adesso doveva farlo. Esatto, o poteva dire, proprio adesso doveva farsi beccare. Ma ci andasse esatto, con un gruppo vacanze Francia che ti portano a vedere l'ala di George Washington, c'è una cosa più degna. Vabbè, vabbè. Un po' di dignità, lo perdono, non lo perdono, ma vai via, è la, è la dignità, ma vai via chi? Vai via Hollande? Che porti in faccia, ma lei, lei non se ne può più, la, la Rottweiler lì, ma adesso basta, sei passata all'attacco della Rottweiler. Ma un po' di dignità, stop, basta, e se anche lo perdoni, chi se ne frega, perdonatevi, ma non ci rompete le scatole. Non andare alla Casa Bianca, te lo immagini, ma Obama, sì, poi Obama... La Casa Bianca ce la fa anche senza Valerie. Cioè, Hollande che incontra... che incontra con la Rottweiler, incontra Obama, che anche lui guarda Michelle e dice forse è un segnale, no? Perché cioè, anche quella Michelle è una donna, quella signora ha le spalle larghe ed è una signora, come dire, che gli ammolla, come dicono a Roma, insomma, che è Obama. Vabbè, non lo perdoneresti, e insomma anzi con dignità. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. 24 mattino. Milan, è morto Claudio Abbado, se ne va un altro senatore a vita. Adesso si è liberato finalmente un posto per Berlusconi. E problema chiuso. Vorrei ricordare al democristiano Renzi che De Gasperi ruppe perfino col Vaticano pur di non avere a che fare con certa gente. Altri tempi e soprattutto altri uomini. Matteo Salvini, come ha detto il suo collega europarlamentare Tarellà, è un fancazzer, anzi per dirla alla tedesca, è un katzermecker. Quello è sempre e solo in televisione, come un tronista. Ma che cazzo di paese è questo? Cabovolo a un ospedale psichiatrico, Riina che minaccia un magistrato, il nostro paese, la Liguria, che sta franando, quei cialtroni siciliani che si aumentano di 1.100 euro il rimborso. Ma che cazzo di paese è questo? Ho saputo della notizia della signora Armellini che ha evaso milioni, anzi forse miliardi di euro. Ma tu che cosa ne dici se gli confiscassimo tutto e la mandassimo a lavorare in fonderia per il resto dei suoi anni? No, sono sereno e ottimista. Ho sentito il Cavaliere che tutti, dice tutti gli altri politici sono in Parlamento per loro interessi. Invece lui farà le leggi che faranno bene al Paese. Viva il Cavaliere, viva Forza Italia. Vabbè, questa è la nostra segreteria telefonica. Siamo con Luca Dini, direttore di Vanity Fair, con Paola Saluzzi. Oggi che fai, Paola? Di che ti occupi? Sky, guarda, credo che oggi ci occuperemo di geografia internazionale. È chiaro. No, oggi Cooperlo. È politica, Cooperlo. Politica. E, no, invece volevo fare un riferimento, anche se lì si è parlato di senatore a vita, di seggio liberato, sì, eccetera. E si sapeva, perché lo si sapeva, perché sono 15 anni che lui come dire, e la fine si erano messi a discutere insieme, però che perdita quella di Claudio Abbado, sì, che grande vuoto dall'altro ieri, proprio, ma vuoto perché era talmente immenso quest'uomo, che forse molti, non tutti devo dire, perché lo abbiamo amato in tantissimi, anche chi non era decisamente appassionato di musica, però molti lo scopriranno adesso. Un grande vuoto, perché se n'è andato un gigante, vero, e quindi volevo dirlo, appunto. Questo, dopodiché certamente ci occuperemo di politica, va da sé. No, questo quindi, è chiaro. E quindi ci occuperemo di PD, politica. Il PD. Faremo i bravi funamboli. Ah, vabbè, certo, è funamboli, è chiaro. A proposito di funamboli, a me era venuta in TV Josefa Idem, ho visto che l'avete intervistata anche voi di Vanity Fair, ma effettivamente però Josefa Idem non ha mai questo dente avvelenato, anch'io l'ho notato, non è che dice io, siamo sempre lì, è tedesca. Anche... anche sul caso De Girolamo però dice no, ma il caso è diverso, non ha sempre tenuto un profilo abbastanza basso, non è che ha mai detto io invece, no? È tedesca per l'appunto, ma io vi vedo qua su Vanity Fair, tra l'altro Vanity Fair, ecco. che ha una bella copertina oggi, c'è cioè Victoria Beckham. Che fai? Cioè, perché ti dà fastidio? Cosa ha fatto di nuovo? No, ma chi se ne frega? Intanto lo scoprirai se vuoi leggere. Intanto voglio dire, è bella così, già così, punto, da vedere. È una che non sta simpaticissima, diciamo la verità. Sì, non sta simpaticissima alle donne. Ma perché non sta simpatica alle donne, Paola? Ma io ho trovato che la definizione migliore l'abbia data il mio direttore Sara Varetto. Ho detto, però fa crescere il PIL internazionale. Fa crescere il PIL internazionale. È una che spende, ha il suo perché, perché spende e quindi crea, fa muovere bene l'economia. Per il resto leggerò con attenzione, come sempre. L'intervista perché che più mi interessa. Perché è antipatica da prima di Beckham, insomma, proprio... Ma perché di faccia? Perché ma la conosci? Faccia puzzona, non lo so, ha la faccia puzzona, appunto. Ma ho capito, ma la conosci o no? Vabbè. No, tu la conosci? No, allora. Vabbè, ma infatti io non sto dicendo che è antipatica o simpatica, sto dicendo che è bella, punto. Vabbè, comunque. No, ma l'intervista che mi interessa di più, siete entrati nel carcere a intervistare Fabrizio Corona, ma Fabrizio Corona che fine ha fatto? Caro Luca Dini, che fine ha fatto? Sta scontando la sua pena fino all'ultimo dei giorni. È opera, noi in realtà non siamo entrati perché lui un po' ha scritto, gli abbiamo dato delle domande e lui ha scritto le risposte. Ma lui sì, sta scontando la sua pena, devo dire, è abbastanza sincero nel dire che è una persona cambiata perché dice se stavo fuori ancora un po' e morivo di pillole, di droga, di pillole per fare l'amore, di pillole per funzionare, di palestra, eccetera. Quindi è abbastanza sincero e c'è una cosa che dice, penso che la mia condanna sia stata esagerata, però sbaglia Berlusconi, ho sbagliato anch'io a criticare troppo duramente la magistratura. Mm. E quindi insomma, quando finirà la sua... quanto deve fare? 5 anni? Sai che non mi ricordo neanche io, ma sì, comunque ne ancora un po'. Effettivamente sì. E Corona lì un anno e qualcosa, un anno e mezzo credo. Sì, infatti sembra passato tanto tempo, eppure così. Vabbè, qua Paola Saluzzi, che devo dire? Allora, c'è chi dice io Paola Saluzzi la sposerei, e vabbè, si candida, non so, poi ti do il numero di telefono se vuoi. Poi uno ci scrive, ma dai, splendida Paola per un paio di corna. Ma no, ma sì, ma hanno ragione, a parte che secondo me è un cesto delle lumache, però voglio dire, saranno anche un paio, ma è proprio, è la storia che uno non sopporta più, cioè questa signora lo perdona, non lo perdona, va in ospedale, è chiaro che sono i media a comunicarla, noi in testa, forse se lei in testa, visto sì, che fa parte, sì. Voleva dare comunicazione, un po' di dignità, se ti sei offesa, vattene, anzi mandalo fuori, anzi vattene, perché lui è l'inquilino. Infatti uno se mi manda subito l'SMS, Saluzzi, vattene! Anche certo, non so perché. Già fatto. So quello che dico. E quindi di conseguenza dico un po' di santa dignità e soprattutto chi se ne frega, perché loro ridono tanto delle storie nostre, ma la loro veramente è un fouilleton quarta categoria. Insomma, egalité, fraternité e dignité, soprattutto. E dignité. E aggiungo anche le physique du rôle. Le physique du rôle. Ribadiamo per lei e per lui. E poi c'è un ultimo che dice: ah, dolce Paola, la rivalità femminile. Non so, se è con Victoria Beckham, forse è Beckham. Era Beckham, questo era il messaggio, lo riconosco il cellulare. È Beckham. Beckham, è Beckham che ha mandato questo sms. Va bene, vi devo salutare, vi ringrazio. Luca Dini, direttore di Vanity Fair, che trovate ovviamente il nuovo numero oggi in edicola, e Paola Saluzzi oggi alle 15, Sky TG24 pomeriggio. Grazie, alla prossima, giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, alle 7 e 18 minuti, pronti a leggere i giornali, come avete sentito. E forza voi, Lo schema Allegri non è che noi lo abbandoniamo, lo schema Allegri vale per sempre, è uno schema di vita. Dai! È lo schema più usato dall'ex allenatore del Milan. Dai, forza, dai! Cari italiani, che c'è da andare a lavorare. E vi ricordo che oggi noi torneremo sulla vicenda dei vitalizi del Lazio, l'approfondiremo, così come avremo ospite un esponente del CDA della RAI, Luisa Todini. Perché? Perché questa notizia per cui la RAI sarebbe pronta a ricorrere al TAR contro il Ministero dello Sviluppo Economico, che quest'anno ha deciso per decreto il canone non va aumentato. Cercheremo di capire se davvero è così. No, perché non vorrei che ci si ritrovi tra un po' tutti in fila o andare in posta a pagare l'aggiunta dei 113,50 euro. Carmelo, quant'è il canone tu che lo paghi? 113,50. Uno che l'ha pagato 113,50, che l'ha già pagato, e quindi lo sa, oppure gli è arrivato a casa il bollettino, l'ha stracciato ma l'ha letto, non lo so. Comunque vi lascerò con questo mistero, intanto andiamo appunto a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola in questo mercoledì 22 gennaio. I titoli, il Sole 24 Ore apre su questa notizia importante per tutti gli italiani: detrazioni, stop ai tagli, riforma con la delega. Il governo ha deciso di non ridurre le detrazioni IRPEF che sarebbero dovute scattare a fine mese e ha rinviato le modifiche alla delega fiscale. 500 milioni necessari per la copertura arriveranno da dove? Dalla spending review, cioè dalla revisione della spesa a cui sta lavorando il commissario Cottarelli. E poi la vicenda all'interno del PD. Per il Corriere della Sera, rottura nel PD, Cooper lo lascia. Repubblica, Cooper lo lascia, si spacca il PD. La Stampa, Cooper lo lascia, Renzi non cede. Il Messaggero, strappo nel PD, alto là di Renzi. Il Giornale invece apre sul tema porte aperte ai clandestini, un tema che vedremo tra poco. Mentre continua, Cooper lo lascia, Renzi raddoppia sull'unità. Fuori i secondi sul manifesto, e c'è la foto di Cooperlo. Il Secolo XIX, Renzi spiana la fronda PD e i partitini. Insomma, come vedete, la notizia del giorno per la politica è proprio questa: le dimissioni di Cooperlo dalla presidenza del Partito Democratico. Il Fatto Quotidiano invece apre su cosa? Il 2013, tutti i soldi ai politici, tutti i favori alle lobby. Un esame di quante aziende private hanno dato soldi ai politici. Per Libero, la truffa delle detrazioni, scorrettezze di Stato, colpo di mano. Oltre i 4.000 euro, il rimborso non avverrà più automaticamente in busta paga, ma dovrà passare al vaglio delle entrate. Norma retroattiva, scrive Libero. Queste alcune delle prime pagine dei giornali che trovate oggi. Io, come detto, vorrei aprire, come apre il giornale, per esempio, sulla questione del reato di clandestinità, che è un tema interessante, nel senso che ieri c'è stato il primo voto al Senato, è stato abolito al Senato, ora deve essere abolito anche alla Camera, il reato di clandestinità, per l'appunto, deve essere derubricato, dopo l'abrogazione del reato, in illecito amministrativo. Rimarrà reato di clandestinità, cioè di chi entra nel suolo italiano, tocca, entra e varca le frontiere dell'Italia da clandestino, rimarrà solo per i recidivi. Il Senato cancella il reato di clandestinità, ma non per i recidivi, così titola il Corriere della Sera. Su questo c'è da dire che la Padania ne fa una campagna, la Lega da tempo titola in prima pagina la lobby dei clandestini e mette Alfano, Grillo, Renzi, Casini, Monti, è quello che la Padania definisce l'effetto Chienghe al Senato. Effettivamente una delle più soddisfatte si è detta proprio il ministro dell'integrazione Cecil Chienghe, che dice questa dell'abrogazione è una norma di civiltà. C'è da dire che curiosamente Repubblica, giornale che tra l'altro per il secondo giorno consecutivo esce senza le firme degli articoli per una protesta sindacale dei giornalisti del quotidiano, accosta questa vicenda a una notizia che trovate a pagina 11, a un'inchiesta: 10.000 rapine in più in 3 anni nelle città, torna l'allarme sicurezza. C'è anche un parere del sociologo Barbagli che si occupa di questi temi: così la crisi fa crescere anche furti e scippi, racconta Repubblica. Il bandito col passamontagna ha puntato la pistola giocattolo alla testa dell'impiegata, l'ha obbligata a riempire lo zainetto con 18.000 euro in contanti, poi l'ha trascinata sul retro per farsi aprire la porta posteriore e tentare la fuga. Bilancio: un carabiniere e un malvivente feriti, vetrine in frantumi, 2 donne prese in ostaggio. Così si è conclusa a Cogliate, in provincia di Monza, nei giorni scorsi, sabato scorso, una rapina all'ufficio postale. E è l'ennesimo caso. L'impennata delle rapine nel nostro paese: sono passate dalle 35.000 nel 2010 alle 44.000 nel 2013. Insomma, sono più di 120 rapine al giorno. E non è l'unico reato rivitalizzato dalla crisi economica. C'è anche il reato dello scippo. Negli ultimi 3 anni c'è stato un aumento degli scippi, passati da 14.000 nel 2010 a 21.000 nel 2013. In 3 anni il 50% in più di scippi. Parla il sociologo Barbagli, che dice: per carità, non dobbiamo dire che bisogna gridare all'allarme generalizzato criminalità, anzi va ricordato che la crisi non ha avuto alcun effetto sugli omicidi, per esempio, il cui declino è continuato ininterrottamente dal 92 fino al 2013, ma certo, la crisi non ha inciso neppure sui furti di auto, sui furti di oggetti nelle auto in sosta, che hanno toccato nel 2013 il minimo storico, ma sono aumentati questi reati. La frequenza degli scippi, per esempio, resta assai bassa e molto minore di quella di un tempo. Nel 91 erano 74.000, ma certo c'è un aumento negli ultimi anni, forse legato alla crisi, dice Barbagli. Non si è ai livelli degli anni 90, ma c'è un ritorno di questa tipologia, di questa tipologia di reati. Tra l'altro, sulla questione degli immigrati clandestini, per tornare su questo tema, anche Emma Bonino, ministro degli esteri, ha voluto lanciare un allarme. E scrive Libero: ha dovuto ammettere anche il ministro degli esteri, tra milioni di rifugiati, tra i quali donne e bambini, trovano nascondiglio anche tutta una serie di altri signori. Si tratta di un problema europeo, perché l'Italia è un paese di transito e dove vanno a finire le cellule dormienti è una questione europea. Cioè, ha parlato di cellule dormienti, anche di possibili potenziali terroristi che entrano nel nostro paese. Questo è l'allarme lanciato da Emma Bonino. Continuano anche sui giornali i colloqui di Totò Riina in carcere. Totò Riina, sapete, insieme a Alberto Lorusso fa queste ore d'aria nel carcere di Opera, massima sicurezza. È stato intercettato con microfoni e telecamere e Totò Riina dice tante cose che ancora oggi finiscono sui giornali. Riina accusa anche Provenzano, scrive oggi per esempio Repubblica. Nel 93 stragi di Stato le ordinò lui. Sembra quasi prendere le distanze anche da Provenzano. Poi frasi che ovviamente faranno ancora discutere. Riina che dice: i Graviano avevano Berlusconi. Frasi ancora sulla trattativa o presunta trattativa Stato-mafia. Quando parlano di Mancino, Riina si sfoga, dice: ma che, mai trattato con Mancino? Questo Mancino trattava con me, loro vorrebbero così, ma se questo non è avvenuto mai, non c'è stato, non ce n'è. quindi non ho mai trattato con Mancino, tanto che Giuliano Ferrara oggi sul Foglio in prima pagina fa un commento molto duro, il titolo è Riina, lo Stato come agente provocatore, subito un'inchiesta. Scrive Giuliano Ferrara, qualche settore d'apparato dello Stato italiano è coinvolto in una spaventosa messa in scena il cui obiettivo è mostrificare il Presidente della Repubblica, calunniare Berlusconi e monumentalizzare il PM Di Matteo e il suo traballante processo. Se volete, mettete pure un punto interrogativo in cima alla frase che avete appena letto, ma il sospetto è lancinante, basato su impressioni fondate su un fatto e un precedente. Il fatto è che nel settembre dell'anno scorso un certo Alberto Lorusso, che secondo Repubblica è ufficialmente solo un affiliato della Sacra Corona Unita e in realtà un personaggio legato agli apparati polizieschi, ha avuto la fortuna di occasione di scambiare due chiacchiere con Totò Riina nel carcere di Opera. Risultato? Effetti? Il capo dei capi in pensione da 21 anni, messo a riposo in galera, confida a questo presuntivo agente dello Stato, del doppio Stato, chiamatelo come volete, tre cose che sono miele per le orecchie di una certa Italia costantemente convocata nella piazza della denigrazione. Napolitano è il darling del Corleonese, si comporta bene ed è fiero nemico della procura di Palermo. Berlusconi è un suo contiguo interlocutore, il PM Di Matteo un colosso dell'antimafia e il suo processo spompato si può ricominciare a pompare in modo più convincente che con le omelie di Barbara Spinelli. E cosa chiede Giuliano Ferrara? Chiede in chiusura di questo articolo un'inchiesta seria, non giudiziaria, non di rito palermitano, un'inchiesta parlamentare urgente, blindata. Vogliamo sapere se il tramonto della malattia e della disperazione dei capi della mafia è alimentato da speranze e collusioni che settori oscuri dello Stato si incaricano di fornire loro perché parlino in modo consono agli intendimenti dei pupari. Siamo il paese di Massimo Ciancimino, il Patacaro, e delle avventure politiche degli Ingroia, cioè dei colleghi di Di Matteo che cercarono, anche a colpi di interviste di quest'ultimo, di trascinare nella fogna del sospetto il Quirinale. È tollerabile che con simili metodi si possa procedere oltre? Ma Giuliano Ferrara scrive, ha più che dei dubbi, diciamo, su quello che è, sono questi colloqui presi in carcere a Totò Riina, e chiede un'inchiesta parlamentare. Vabbè, animo per oggetto di polemiche per una solita certa stampa. Ci sarà il dibattito nei prossimi giorni, ve lo assicuro. Ora la pubblicità e poi rientriamo con le notizie della politica. 24 mattino. Eccoci qua alle 7:33 minuti, la notizia del giorno per la politica, con la quale aprono, per me un po' incomprensibilmente, ma è sicuramente la notizia politica più determinante, sono le dimissioni di Cuperlo dalla presidenza del Partito Democratico. E, come detto, molti giornali, molti retroscena, la politica insomma è alimentata da questo chiacchiericcio continuo. Racconta per esempio Repubblica nel retroscena in prima pagina, ristorante Lucano Il Grano dietro il Senato, musi lunghi, rabbia, si presenta Cuperlo e dice ai suoi: Matteo è un arrogante, vuole comandare, basta, il rischio è che nel PD non ci sia più libertà. A suo modo è furioso, racconta che per tutta la giornata ha atteso colpito un segnale da Renzi lunedì notte o ieri mattina, una telefonata di scuse, la presa di distanza pubblica da quei renziani che ne avevano chiesto le dimissioni ancor prima dello scontro frontale col segretario. Niente, silenzio assoluto, nonostante la telefonata di Letta che gli dice: pensaci bene, non mollare, lo farò, ha risposto Cuperlo. Pensare intendeva pensare, ma determinato poi alla fine ad andare fino in fondo con le dimissioni. Poi anche qui vai a sapere, il retroscena del Corriere della Sera, firma Maria Teresa Meli, a pagina 3 invece racconta una verità diversa, cioè Cuperlo aveva già deciso di dimettersi ancor prima della direzione del PD, quindi ancor prima delle famose battute di Renzi che gli ha detto: parli tu delle preferenze che sei stato eletto nel listino. Scrive il Corriere: in realtà il presidente dell'assemblea del PD aveva già deciso di dimettersi il giorno della direzione, non dopo la replica di Renzi, bensì prima, ossia al termine di una tormentata assemblea della minoranza che aveva preceduto la riunione del Nazareno. Non era dell'umore migliore per affrontare la direzione, aveva già detto ai suoi: questo sarà il mio ultimo intervento da presidente. Quindi c'è anche il giallo, aveva deciso prima, ha deciso dopo le battute di Renzi. Sono argomenti che, come al solito, come dico io, animano le vostre colazioni laute in questo momento, prima di andare a lavorare o se siete già in macchina. Sta di fatto che ora Letta cosa fa? La strategia di Letta, secondo il Messaggero, secondo il Corriere della Sera, è quella del rimpasto. Addirittura il rimpasto potrebbe arrivare già con un blitz, racconta Marco Conti sul Messaggero a pagina 5, nel weekend. Il premier è deciso a forzare la mano, martedì si vota la mozione di sfiducia sulla De Girolamo, martedì prossimo, e dunque Letta prepara il blitz, dice ai suoi: io ci provo, se poi in aula qualcuno pensa di fare il furbo, si vota e vinco anche col sistema che abbiamo. No, queste sono parole di Matteo Renzi riguardo alla questione della legge elettorale. Dall'altra parte Letta invece da giorni scrive e riscrive il patto di programma, sta molto attento a non scoprire i suoi ministri al punto da aver perfino fatto cancellare ogni ipotesi di cancellazione delle detrazioni IRPEF, dicendo: troveremo i soldi con la spending review. E questo è un tema che vedremo tra poco con Mauro Meazza. Però pensa appunto di fare un blitz con il rimpasto. E vabbè, ripeto, sono tutte questioni di politica, di dibattito. Secondo la stampa addirittura Cuperlo e Fassina, che pensano a una scissione, in realtà si devono confrontare, come scrive Carlo Bertini a pagina 3, con una minoranza del PD che è già spaccata in tre al suo interno, e dunque tre minoranze dello stesso partito. La minoranza accusa, ma è già spaccata in tre e spuntano quattro candidati per la successione alla presidenza. Uno, pensate, è lo stesso Fassina, che si è dimesso da viceministro, potrebbe adesso rientrare come presidente del Partito Democratico al posto di Cuperlo. Di politica invece che cosa mi interessava segnalare? Mi interessa segnalare l'apertura del Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano è andato a spulciare con Carlo Tecce quelle che sono i finanziamenti privati alla politica. Nel 2013 partiti ed eletti hanno incassato 61 milioni di euro da singoli privati, sono donazioni da parte di aziende private. Il più pagato è stato il tesoriere dei DS Ugo Sposetti, che ha ricevuto 262.000 euro. Ma ce n'è anche per il detenuto Totò Cuffaro, 220.000 euro. Questo è un po' un mistero, da Forza Italia. Carlo Teccia, pagina 2, racconta cosa succede, che questi finanziamenti, che sono assolutamente leciti e denunciati, poi però, secondo il Fatto Quotidiano, fanno portare i parlamentari a sdebitarsi con leggi ed emendamenti a favore dei gruppi di potere. E allora Carlo Tecce dice, per esempio, Ugo Sposetti ha ricevuto soldi 262.660 euro in 12 mesi, ha denunciato per esempio 37.000 euro ricevuti dalla Federazione Italiana Tabaccai. Oppure c'è Gasparri che ha ricevuto da Albatros di Alessandro Iacchia un finanziamento da 15.000 euro, e racconta il Fatto Quotidiano: quando il pubblico si è diviso sulla trilogia Gli anni spezzati su Rai 1 di Albatros, Gasparri ha elogiato l'opera televisiva, e racconta il fatto, è lo stesso Gasparri che ha ottenuto un finanziamento da Albatros. E poi c'è questo finanziamento un po' misterioso da 220.000 euro a Totò Cuffaro da Forza Italia, che allora, scrive il Fatto Quotidiano, non era neanche rinata, ma che il 21 maggio 2013 ha dichiarato Cuffaro una donazione di 220.000 euro da Forza Italia, che in quel periodo era in sonno, ancora non resuscitata. E scrive Tecce: tra risposte negate, smozzicate, fonti di Forza Italia confermano il pagamento, ma non sanno chi l'ha disposto e perché. agli uffici di Montecitorio è stato addirittura motivato come finanziamento per una candidatura, ma Cuffaro, che è in carcere, non è stato candidato e neanche un suo omonimo, e dunque c'è questo finanziamento da 220.000 euro, un po', secondo il fatto, dice, immotivato, comunque un po' strana una persona che è in carcere. Per quel che riguarda invece la politica, sempre sul Fatto Quotidiano si svela l'uomo che ha tirato le uova all'arrivo di Silvio Berlusconi nell'incontro con Renzi. Si tratta di un 85enne, Giuseppe Salomè, che prende carta e penna e dice: ma quale popolo viola? Sono io, sono un marxista indignato, sono andato lì con 4 uova nel cappotto, aspettandomi di trovare centinaia di compagni ferocemente incazzati, fronteggiati da centinaia di celerini, e invece c'erano un centinaio scarso di carabinieri, 4-5 pulmini e una cinquantina di patetici contestatori vocianti. Quando è arrivata la macchina di Berlusconi, si è aperto il cordone e allora ho lanciato 2 uova, quando un maresciallo incredulo mi ha detto: ma che fa? Si fermi, mi consegni un documento. Gli ho consegnato la carta d'identità, l'ha controllata, mi ha detto: stia fermo qui, e dopo 10 minuti è tornato e me l'ha ridata scuotendo la testa. Avevo ancora 2 uova e pensavo di attendere l'uscita di Berlusconi, ma siamo stati allontanati. L'ho fatto perché sono indignato per questa assurda situazione politica italiana. Firma Giuseppe Salomè, pagina 6 del Fatto. Si svela così l'uomo che ha lanciato le uova a Berlusconi. Ne ha ancora 2 però, caro Mauro Meazza, stai attento se si aggira col cappotto. Ma 2 uova in tasca, e quindi attento. Buongiorno innanzitutto, Alessandro. Poi ti avviso che oggi sul Sole 24 Ore c'è anche una tua foto a un certo punto, là dove parliamo dei programmi TV. Sì, quella scattata nel 74, me la ricordo. E quindi potrebbe riconoscerti questo signore a cui facciamo anche un po' i complimenti per la vitalità, effettivamente. Ah, non per le uova, se no subito te salgo. No, per la vitalità sicuramente, per le uova, va, insomma. Un metodo di contestazione effettivamente un po' Dantan, verrebbe da dire, no? Sì, abbastanza. Mauro, svelaci tutto su queste detrazioni, perché è una cosa che interessa molto gli italiani, e che l'apertura, allora, del sole. Una buona notizia: doveva esserci, cioè non sarebbe stato molto probabile, un taglio, una riduzione degli sconti fiscali, quelli al 19%, quelli che fanno sì che ci mettiamo da parte gli scontrini parlanti col codice fiscale in farmacia. Il ministero ha detto: no, vabbè, non lo facciamo, farà tutto Cottarelli, taglierà tutto Cottarelli, ci servono 500 milioni, a proposito dei tuoi 2 euro, tienili lì che poi servono, i tuoi 2 eurini, e quindi farà tutto Cottarelli, noi le detrazioni ve le lasciamo al 19%, quindi gli sconti fiscali restano così. Questo ha detto il ministero. Come lo farà, vediamo, perché bisogna fare un provvedimento appositamente. Sì. Come si troveranno poi i soldi? Perché credo 500 milioni che vanno trovati. E insomma, visto che per la mini IMU, che erano meno, non ci siamo riusciti, perché non erano nemmeno 400, però insomma, come dire, Cottarelli, che ha doti taumaturgiche, potrebbe sistemare questi 500 milioni, forse anche la vicenda Guarin-Vucinic. Vediamo, certo. Se con una capriola potrebbe chiedere, interessarlo anche di questa vicenda. Senti, più seriamente, oggi con il Sole 24 Ore ci sono 16 pagine dedicate agli incentivi per assumere. E abbiamo provato a metterli tutti in fila, a vedere quali funzionano, quali no, se sono tutti attivi oppure manca ancora qualche cosa e come si fa a utilizzarli. Quindi una misura, come dire, un tentativo di fare ordine negli incentivi, che sono parecchi, destinati a platee diverse, a posizioni diverse. E poi anche, che non hai visto mai, servisse un po' a convincere per far ripartire un pochino le assunzioni. Intanto, se vuoi riportare il tuo piccolo capitale che ti sei dimenticato di dire al fisco che hai all'estero, chiaro, sappi che si sta studiando questa voluntary disclosure, che sarebbe rientro volontario, con delle soglie agevolate se il capitale è piccolo, tra 500.000 e 1 milione di euro. Tu l'hai già fatta, la mia voluntary disclosure l'hai già fatta a tutta Italia praticamente, tu. Sì, ma sei volontaria, non hai niente da nascondere, quindi puoi riportare, adesso aspetta perché non c'è ancora il provvedimento neanche lì come per le detrazioni, però lo stanno preparando, ce l'ha raccontato Alessandro Galimberti oggi su Sole 24 Ore, quindi tienilo lì. Poi c'è una cosa di Radio Fisco molto importante che ti devo dire. Attenzione. La Cassazione ha detto che, vabbè, se l'IVA proprio non si riesce a trovare i soldi per pagarla, sì, effettivamente non può esserci il reato. Ecco, adesso lasciamela passare così, perché per spiegarla mi ci vuole un quarto d'ora, ma insomma. No, ma ci sono state anche varie sentenze precedenti. Infatti, però sembrava che fosse un po' una cosa, un'iniziativa dei giudici. E invece ora la Cassazione. La Cassazione tutto sommato l'ha benedetta a certe condizioni, eccetera, eccetera. Però ho detto, beh, effettivamente, insomma, può accadere che non hai soldi. Allora, vuoi partecipare alla gara per la Concordia? Per smantellare la Concordia? Sì, sì, con i 2 euro sarà difficile, ma... Ma non so, poi dopo lì si trovano i soldi, ma comunque hai tempo fino a mezzanotte. Leggi sulle imprese e territori. Una roba velocissima. E mettiamo giù 2 cose e facciamo insieme. Dai, ti trovo io i capitali con la volontà di disclosure. Va bene, se volete, cari italiani, entro mezzanotte. Caro Mauro, ti ringrazio. Ci sentiamo domani. Noi ripartiamo dalle altre notizie dopo le informazioni sul traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, cari italiani, le altre notizie sui giornali. Beh, ma questa è veramente clamorosa. Sentite cosa scrive La Stampa, tra il colore e il divertimento, a pagina 7. L'assessore maldestro succede alla provincia di Milano con un brindisi. Un assessore stappa una bottiglia di spumante e col tappo fa un buco su una tela del 700. Ma vi rendete conto? Col brindisi in provincia ho rotto un quadro del 700. L'assessore si confessa. E l'assessore Roberto Cassago: mi autodenuncio, sì, sono stato io, dice a Marco Bresolin. Però guardi che tendenzialmente sono ancora socialista, perché l'avevano dipinto un ex assessore socialista. No, sono ancora socialista. Allora torniamo a quella cena, ma no, una cena, era un brindisino, le racconto. Passavo nel corridoio, vedo una delle feste pre-natalizie qui in provincia, una per settore ce n'è, quindi passo di lì, mi mettono in mano una bottiglia, ma di champagne, ma no, un misero spumantino, conosco bene quel dirigente, figuriamoci se porta lo champagne. Ebbene, posso sbagliarmi, sa, comunque stappo e pum, scoppia il tappo e va su col tappo di sughero, fa un buco sulla tela del 700. Magari sono stato un po' maldestro, dice, ma è possibile che sia stata anche un'altra bottiglia, ne abbiamo aperte 3 contemporaneamente. Poi uno dice che le province non fanno danni pure al patrimonio artistico e culturale italiano. Questo assessore, vabbè, ha stappato lo spumante e via una tela del 700 danneggiata. E vabbè, a proposito di tele ben più preziose, tele di Van Gogh e tele di De Chirico, questi sono alcuni dei beni che sono stati sequestrati a casa di Monsignor Scarano, Nunzio Scarano, che è stato arrestato, o meglio, un nuovo arresto nei suoi confronti, perché già era stato in custodia, era in custodia cautelare. Ebbene, Monsignor Scarano, un racconto che Fulvio Buffi e Fiorenza Sarzanini fanno a pagina 16 del Corriere, è davvero incredibile. Una personalità che è definita dai PM inquietante, un alto prelato, formale uomo di chiesa del Vaticano, eppure soggetto dedito alla vita mondana, in grado di ricorrere a ingannevoli e spregiudicati artifici per non figurare nelle operazioni finanziarie. Uno che frequenta Alberto di Monaco e Michel Hunziker, scrivono i magistrati. Uno che ha denunciato lo scorso 31 gennaio un furto in casa, e sentite il Monsignor Scarano cosa denuncia di furto in casa: 20 quadri di Guttuso, De Chirico, un calco del crocifisso dell'altare di San Pietro, una pergamena olio, argenteria, posateria varia del valore di svariati milioni di euro. Un'irruzione che a questo punto rimane misteriosa nel suo appartamento. Questo è l'arresto dell'ex responsabile dell'amministrazione del patrimonio della Santa Sede, e uno spaccato abbastanza inquietante di quelli che sarebbero i beni in suo possesso. Lo potete leggere su tutti i giornali, come potete leggere molto delle notizie degli esteri. La prima, la più importante, è quella che riguarda la Siria. Si apre quella che viene definita Ginevra 2, cioè a Montrone, la città svizzera, la conferenza di pace sulla situazione in Siria. Si apre, come scrivono tutti i giornali, leggo dalla Stampa, con le foto shock della tortura, immagini scattate da un disertore che accuserebbero il regime di Assad. Ovviamente qui bisogna sempre usare il condizionale, perché non è facile dire delle certezze in queste situazioni. Oggi il via ai colloqui, c'è anche stata una telefonata tra Obama e Putin. E certamente però si cerca, e tutto il mondo internazionale guarda questa conferenza a Montreux per cercare una situazione di risoluzione del conflitto della Siria, di cui si parla sempre molto poco. Io ricordo che c'è anche un frate, padre Dall'Oglio, che è stato sequestrato, come era stato sequestrato Domenico Quirico, di cui non si sa nulla da mesi, e che è tenuto in ostaggio in Siria. Anche per Repubblica, i nemici al tavolo di Ginevra, primo dialogo opposizione-regime contro Damasco, arriva il rapporto shock con la foto di 11.000 detenuti torturati. Vabbè, per quel che riguarda le notizie dall'estero, se volete ci sono anche, continuano le puntate, il feuilleton della vicenda Hollande. Ormai siamo a livelli veramente da romanzo rosa d'appendice, cioè il perdono. È il momento forse del perdono di Valérie Trierweiler-Rottweiler, e cioè avrebbe perdonato il presidente, ma attenzione, secondo tutti i giornali lo avrebbe perdonato perché è in vista la visita alla Casa Bianca, e allora non vuole perdere l'occasione di presentarsi alla Casa Bianca come Premier Dame. Questa è Valérie ha perdonato Hollande, ma solo per andare da Obama. Questo titola per esempio il quotidiano Libero, ma così anche tutti i giornali, mentre giustamente il quotidiano Nazionale fa una pagina dedicata alla vicenda, anche questa dimenticata inspiegabilmente di colpo, di Michael Schumacher. Che fine ha fatto Schumacher? Come sta soprattutto Schumacher? La verità è che c'è un silenzio totale, perché dal 31 dicembre mancano bollettini medici, e allora Leo Turrini sul quotidiano Nazionale a pagina 13 fa una pagina a cercare di capire il gigante addormentato, la sua battaglia nel buio del coma. Il campione rimane sedato, la moglie gli è sempre accanto. Certo, c'è mistero, perché ovviamente non trapela nulla dai medici sulle condizioni di Michael Schumacher. Qualcuno in Germania ha scritto che il gigante addormentato non si sveglierà più, in Austria sostengono invece che il cervello di Schumi avrebbe risposto bene alle prime sollecitazioni di chi lo assiste. Sta di fatto che c'è ovviamente tanto mistero sulle condizioni di salute certamente molto gravi di Michael Schumacher dopo la caduta sugli sci. Va bene, siamo al momento conclusivo. No, prima del momento conclusivo, c'è da dire che la Juve con le coppe, cari juventini, trionfate, gli scudetti, cioè, con le coppe proprio, non ci azzecca, ci azzeccate poco. Zampata Roma, Juve 0 in coppa. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Il momento invece della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi, stravince Libero, che dedica mezza pagina a che cosa? A questa notizia. Peli pubici in vetrina, la campagna Osé che divide New York. Ammesso a New York sulla East Houston Street, tre manichini femminili di biancheria intima trasparente e folto pelo pubico in bella vista. E la gente si ferma e dibatte. Ma è uno scandalo! Ma non è uno scandalo! Ma chi se ne fotte? Ma vi rendete conto? Mezza pagina su Libero, la carta costa. E non lo sanno e non lo capiscono. Giornale Radio. Sono le 8 e 18 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, come sapete, da alcuni giorni ci stiamo concentrando su questa vicenda dei consiglieri della Regione Lazio e sui vitalizi, dopo che venerdì scorso sul Corriere della Sera Sergio Rizzo aveva denunciato, insomma, c'è una situazione alla Regione Lazio dove tutto è come prima. Perché? Perché nonostante il governo Monti avesse provato a fare una modifica dicendo d'ora in poi, almeno dopo il caso Fiorito, no? Che tutti ricordate, almeno bisogna avere 66 anni per ottenere il vitalizio, bisogna aver fatto almeno due legislature, basta con i consiglieri regionali che fanno magari pochi mesi, hanno diritto a un vitalizio. Ebbene, cosa è successo? Si è scoperto che in realtà la Regione Lazio è tutto come prima, perché il Consiglio regionale del Lazio evidentemente non ha recepito questa modifica del governo Monti e dunque si è scoperto tramite una lista che è stata richiesta da un consigliere regionale e che è stata ottenuta non senza fatica, ora credo ce lo racconterà, si è scoperto che in realtà non è cambiato nulla. Appunto, ci sono persone che sono state in consiglio anche nell'ultima legislatura, magari alcuni tre mesi, alcuni sei mesi, alcuni un anno, oppure una legislatura, ricordiamo tra l'altro, che non è neanche stata portata a termine, 5 anni, e che non hanno 66 anni ma che possono godere del vitalizio. Io voglio salutare Valentina Corrado, che è consigliere del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio e anche presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, lei è la consigliera che a fatica, immagino sia a fatica, e dopo una serie di ripetute richieste ha ottenuto questa lista di beneficiari dei vitalizi. Quanto è stato difficile intanto? In un primo momento, diciamo, è stata chiesta questa lista in maniera diciamo informale, ci è stata opposta la privacy, cioè noi potevamo vedere la somma, il quantitativo, quindi smontare del costo dei vitalizi, che è un dato visibile dal bilancio del Consiglio, ma non avere i nomi e le cifre. Ma almeno si poteva sapere, diciamo, cifra per cifra oppure il totale semplicemente? No, nel bilancio è presente soltanto una voce, appunto, che si chiama nel capitolo di bilancio vitalizi, e c'è il totale, la somma totale. Che tra l'altro ricordiamo, se non sbaglio, è un terzo del bilancio totale più o meno del Consiglio regionale, sì. Va in vitalizi, che per carità, cioè come sì. Principio sono soldi che i consiglieri accantonano durante la legislatura e che poi vengono ridistribuiti. Il problema qual è? Intanto è una sproporzione tra quello che si accantona e quello che poi viene percepito come vitalizio, no? Sì, c'è una sproporzione e dall'elenco che è stato reso noto e pubblicato ci sono casi in cui spiccano le cifre di 8.000 euro, che attualmente prende il dottor Marroni, che è l'attuale garante per i diritti dei detenuti, e che è composto praticamente un doppio vitalizio, si può dire, perché quegli 8.000 euro sono dovuti dal vitalizio del dottor Marroni e in più da quello della moglie, che diciamo in quella somma c'è la pensione di reversibilità della moglie, che è stata in passato, è morta, è stata consigliere regionale. Il problema dei vitalizi che noi abbiamo affrontato subito. Beh, adesso appena... però messa così, Corrado, sì. Sembra di additare, diciamo, Angelo Marroni come uno dei... No, diciamo, lei ha fatto un esempio, ce ne stanno altri. E la somma che dall'elenco emerge di più, perché sono 8.100 euro circa, su una media totale della lista che va dai 5.000 euro, ecco. È un esempio, se spicca una cifra del genere, perché per esempio quello è un doppio, è una sorta di doppio vitalizio, sì. Cioè la pensione di reversibilità, e quando magari un cittadino normale non riesce a percepire, cioè non questo percepisce, però è dovuto anche che la base, soprattutto in passato, che era il sistema retributivo non come l'attuale, e poi sì. Soprattutto la base dello stipendio era molto alta, e quindi è chiaro che le pensioni, poi chiamatele come volete, ma i vitalizi risultano molto alti. La cosa che però ha colpito è che non è cambiato nulla. Ma come? C'era questa norma del governo Monti, perché non è stata recepita o è stata aggirata dal Consiglio regionale precedente? È la stessa cosa che noi abbiamo sollevato durante la discussione del famoso collegato, la spending review che abbiamo fatto in Regione Lazio a giugno, e che si è limitata, è stata una legge, che adesso è la legge 4 del 2013, chiunque può andarla a vedere, si è limitata a recepire, modificandolo, il decreto 174, la spending review montiana. Quello che abbiamo sollevato è proprio questo: se si voleva realmente cambiare e si voleva andare verso una riduzione reale dei costi della politica, si doveva andare oltre un mero recepimento Noi abbiamo proposto in quell'occasione l'abolizione, fatti salvi i trattamenti in erogazione, sì, dei vitalizi non ancora erogati. Sì. Abbiamo chiesto il divieto di cumulo, perché anche quello è un, sì, è un grande problema. Ieri, per esempio, avevamo, sì, avevamo una ex consigliera napoletano che è anche ex eurodeputata, 4 legislature, e lei cumula due vitalizi. Quello, vabbè, quello da eurodeputata e quello da ex consigliere regionale. Insomma. E voi vorreste toglierla questa cosa? Sì, perché quello che noi crediamo è che in un momento come questo, in cui i giovani, cioè chi mi sta ascoltando ora e sta andando a lavoro, non sa se prenderà la pensione, non sa se in futuro prenderà una pensione, quindi crediamo che anche un consigliere, anche chi ha fatto il consigliere regionale o l'eurodeputato o il senatore, può prendere benissimo una sola pensione, una sola, come prende un cittadino, se la prenderà, sì, ripeto, una sola pensione a 65 anni e non con un privilegio di età anagrafica ridotta, e una sola pensione rispetto a quello che ha realmente versato. Quindi il passaggio, abbiamo chiesto anche il passaggio al sistema contributivo. Beh, chiaro. Che adesso sarà applicato. Ma come mai non è stata, cioè, il fatto che debba essere recepita dalle regioni una norma del governo? Già questo, sì, fa arrabbiare molti cittadini. Dice: ma come? È una legge, è un decreto del governo? Il discorso è questo, ci viene detto che c'è la paura dei ricorsi da parte di chi ha diritto al vitalizio, perché trattasi di diritti acquisiti. Il classico. E questa, chi dice questo, dice il fatto e sta a dimentire, e le spiego perché. Per un semplice motivo, abbiamo fatto presente all'Aula durante la discussione diverse sentenze della Corte Costituzionale, che si è già espressa alla fine degli anni 90, parliamo del 99, dicendo che le modifiche peggiorative in peius, sì, retroattive, quindi per come quello che accade a tutti i cittadini, come quello che accade a tutti i cittadini, lo dico ovviamente ironicamente, abbiamo detto, ha fatto nei confronti dei cittadini, sì, sono giustificate, sono legittime, quindi si possono fare se sono se trovano una giustificazione sul piano della ragionevolezza e se intervengono queste modifiche in un contesto di revisione della spesa pubblica. Però le chiedo questo, Corrado, per esempio l'ex assessore Ambrosi, che è in questa lista, lui dice: io sono stato 3 mesi in consiglio regionale, ma in, sì, maniera, fa anche un'intervista al Tempo abbastanza sdegnata a dire: non è vero, io non prendo niente, non prendo il vitalizio, non l'ho chiesto, anzi mi danno tutti dell'imbecille, perché a questo punto avrei potuto chiederlo, ma invece non l'ho chiesto e quindi non lo percepisco. Ecco, questa è una cosa importante, è rinunciabile, cioè è vera questa cosa, può rinunciare e quindi oppure no, è una cosa che arriva automaticamente? Allora, il discorso è questo: normativamente la rinuncia non è normata, non è disciplinata, ok? Quindi normativamente non esiste questa cosa, però su base volontaria, se uno vuole, credo possa rinunciare, come noi rinunciamo a parte dell'indennità. No, anche questo discorso dell'indennità, non c'è una norma che dice che tu puoi rinunciare e destinare parte dell'indennità magari in un fondo per il microcredito, eccetera. Noi lo facciamo di nostra volontà, quindi nulla vieta di chiedere l'IBAN della regione e restituirlo. Però l'unico modo è quello. Però l'unico modo è quello, restituirlo. Il discorso è questo: la lista che noi abbiamo prodotto non sono quelli erogati, sono i vitalizi erogati nel mese di dicembre, quindi quelli sono stati dati. Quindi anche sono stati erogati. Ma quindi c'è nella lista i 3.000 euro li ha presi. Cioè, la lista, qui però, a meno che non hanno sbagliato cioè, l'hanno messo in automatico perché ne aveva diritto, ma in realtà lui dice: non ho fatto richiesta, non voglio far San Francesco, ma non ho proprio presentato richiesta per ottenere l'assegno. La richiesta non si fa, perché tra l'altro dice: non me la sono sentita in questo momento che vive il paese, magari lo farò nei prossimi anni, e soprattutto molti mi hanno detto: almeno potevi prenderlo a questo punto, ho fatto pure la figura dell'imprenditore. imbecille. Quindi lui in un'intervista al Tempo dice proprio di non averli presi. Io so soltanto una cosa, io guardo i dati di fatto, ho in una lista dei trattamenti erogati, non risulta nella lista nessuna istituzione, quindi io faccio fede agli atti che ho in mano. Comunque Corrado, noi abbiamo chiamato, visto che lei l'ha nominato, insomma, è sempre il responsabile che si occupa anche dei questioni dei detenuti, Angelo Marroni, che però in questo caso chiamiamo in una veste diversa. Marroni, buongiorno, eccoci qua, ci sente? Buongiorno. Eccoci, perché Valentina Corrado, che è consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ha fatto il suo esempio come uno dei tanti di persone che godono un vitalizio, in questo caso anche credo un doppio vitalizio con reversibilità di sua moglie come ex consiglieri della regione Lazio. Secondo lei questo sistema non è un sistema al quale porre una fine o comunque da modificare? Sì, io penso che questo si dovrebbe porre fine, perché io dicevo il vitalizio mio è di 4 legislature, come Cosentino, come gli altri, quello da 5.000 euro, e poi dicevo irreversibilità, sì, il vitalizio di mia moglie che è stata consigliera regionale. Certo, ma si dovrebbe cambiare in che senso? Cioè, secondo lei non... Cioè, per eliminare la reversibilità, ma questo però va a incidere sul tema famiglia e diritti, perché in realtà mia moglie aveva il diritto al vitalizio quando è stato consigliere regionale, assessore regionale. Sì, certo. E quindi ce l'ha come in quanto persona, in quanto singolo. Poi perché anche mia moglie c'è questa reversibilità sul marito. Però le dice lei andrebbe eliminata, lei non ha mai pensato, per esempio. Cosa ne pensano, so, del Movimento 5 Stelle, sa che dicono no, anche noi riceviamo, che ne so, 11.000 euro di stipendio e poi in parte lo restituiamo. Lei che fa? Questa è un'iniziativa. Perché devo restituire, non capisco, è un diritto. E appunto, questa è la questione. Beh, è un diritto. Il problema è che bisogna modificare la legge. E non è che lo restituisco io e altri, altro non si può neanche restituire. A chi lo restituisci? Beh, non lo so. Non so, Corrado, voi a chi restituite lo stipendio? Cioè, capisce, dice, è un diritto. In un apposito fondo di microcredito, emendamento che ci è stato rigettato e ripresenteremo per il collegato adesso a febbraio. Per adesso accantoniamo le somme in attesa che ci consentano di restituirlo alla regione. Però ho sentito Marroni dice è un diritto, cioè siamo sì. Sarebbe anche d'accordo, cioè se si modificasse, ma fintanto che c'è questa cosa dice che devo fare. Ma il discorso, i diritti degli esodati? I diritti di chi ha una pensione, chi si è visto modificare l'età, di chi deve stare 42 anni in fabbrica a lavorare e ha lavorato una vita, non è quello un diritto. Non stiamo demonizzando il consigliere regionale, non stiamo dicendo che chi fa il consigliere regionale non deve avere diritti. Noi stiamo dicendo che questo dislivello, questo privilegio, che diventa un privilegio nel momento in cui una persona non arriva a fine mese e ha 500 euro al mese di pensione, questo privilegio non ci deve essere, no, ci ma deve è chiaro, essere un sistema contributivo in base a quanto uno versa, percepisce, un'età uguale per tutti. No, ma il punto è chiaro, Angelo Marroni, capisce, cioè non è una questione in punta di diritto, si dice tante volte, non nulla eccepisce, voglio dire, lei può avere la reversibilità, e la questione è che in un momento in cui tutto il paese fa sacrifici... Sì, ho capito, ma vogliamo, allora, si modifichi la norma. Si modifichi la norma. Modifichi la norma. Diciamo, il Consiglio regionale è sovrano, può modificare la norma, se crede, no? E lei comunque non sopporrebbe minimamente, insomma, questo. No, anzi, anche consigliere regionale. No, dico, non sopporre, non farebbe una battaglia, troverebbe addirittura giusto, troverebbe giusto addirittura che venisse cancellato. L'importante è che non mi tolgano il mio, perché io ho il diritto al mio, avendo vissuto 4 legislature in consiglio regionale. Questo certamente, insomma, se è una pensione nessuno vuole togliere, però il concetto... Non è una pensione, poi è un vitalizio, perché ho contribuito a pagarlo. Come le pensioni? Il vitalizio è pagato anche in parte, sia pure in minima parte, dal consigliere stesso. Questo sì, però tutti i lavoratori accantonano parte dello stipendio per la pensione. Ma non è una pensione, non è che si prende la tredicesima. Ah, vabbè. Questa è l'unica differenza con la pensione, però è anche cumulabile con le pensioni se uno fa un lavoro contemporaneamente. è una roba anche in più. Comunque andiamo a sentire un attimo la pubblicità, poi rientriamo. La ringrazio Marroni per essere stato con noi, con Valentina Corrado riprendiamo tra qualche minuto, se volete cari ascoltatori anche il vostro parere, 800 24 00 24, è un diritto, va cambiato la norma, altrimenti il diritto è un diritto. Tra poco 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:38 minuti. Continuiamo a parlare con Valentina Corrado, che è consigliere del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio. Gli ascoltatori 800 24 00 24, ci ha chiamato Rosario da Roma. Stiamo parlando della vicenda dei vitalizi. Rosario, che dice? No, io dico che ho versato 42 anni di contributi. Sì. E devo aspettare esattamente 2 anni e 4 mesi per prendere la pensione. Sono un libero professionista, non sono un esodato, ma insomma in modo diverso dagli altri. Volevo semplicemente chiarire che noi siamo anche supplenti dello Stato, in quanto siamo ammortizzatori sociali, per esempio manteniamo una figlia disoccupata. Se non mi dai la pensione ti crei improvvisamente 2 problemi. Seconda cosa è che questa è vita, non può essere legata alla fortuna di una data di nascita, perché... Sì. La fortuna è una cosa che appartiene al casino. Vabbè, diciamo, questa è la vicenda che lei dice, insomma, la riforma Fornero, no? Però la riforma della cara Fornero, anzi sì, carissima. appunto. Però rimanendo sul tema, cioè che se riesce a essere, diciamo, edulcorato, che reazione l'ha suscitato sentire anche la questione dei vitalizi che adesso sentire il fatto che proprio per queste ragioni, proprio perché ci sono centinaia di migliaia di persone che stanno in queste condizioni, non è assolutamente giusto, in quanto appunto uno Stato di diritto non può parlare di fortuna o di sfortuna, cioè non è possibile che per un giorno e per una data di nascita qualcuno resta senza reddito, no? E mentre poi ci sono altri che prendono delle cifre spropositate che non hanno prodotto niente. Questo Rosario, la ringrazio anche per il suo sfogo. Vabbè, poi non hanno prodotto niente. Adesso non mettiamo tutto che è tutto, che non serve a nulla. Insieme a Valentina Corrado voglio salutare Paolo Cento, che non abbiamo. Cento, buongiorno. Buongiorno. Non abbiamo chiamata per il trionfo della Roma. Il trionfo. Parliamo di cose allegre, no? Invece parliamo di drammi sociali. Però sono molto. Molto solidale la telefonata che ho ascoltato. Però Cento è nella lista. Cento è nella lista. Io voglio dirlo con chiarezza, poi dopo parliamo. Sì. Cari amici che state all'ascolto, non vi fate fregare 3 volte. Allora, i vitalizi ne parliamo e adesso ne parliamo. Sì. Ma il dramma di questo paese è che hanno fatto una riforma delle pensioni, la riforma Fornero, ma fatelo dire a chi in Parlamento ha votato contro la riforma Dini e la riforma Maroni, che hanno tolto diritti ai cittadini. I cittadini fanno bene ad essere incavolati, perché sennò gli si indica un obiettivo che purtroppo è un obiettivo vinto. Non vogliamo senza lavoro e senza pensione, è una vergogna sociale. Non vogliamo dire siccome quelli lì rischiamo proprio cose che sono assolutamente non collegate tra loro. L'ascoltatore ha detto: noi abbiamo parlato con c'è qui Valentina Corrado. Non è una critica alla redazione, però siccome sono uno che fa politica da 35 anni, ma è chiaro, non è che rimanga insensibile di fronte alla rabbia e alla sofferenza sociale che giustamente... Un conto sono i temi. Oggi stiamo parlando di questa vicenda dei vitalizi, c'è Valentina Corrado, c'era prima anche Angelo Marroni, il garante dei detenuti che gode di 2 vitalizi, l'abbiamo chiamato al volo, come abbiamo chiamato al volo lei. Quanto è il vitalizio che prende? Io prendo dalla Regione Lazio 2460, 64. Per quante legislature? Io ho fatto il consigliere regionale dal 95 al 96, poi sono stato eletto nel 96 alla Camera, quindi dimesso dalla regione com'è, però vorrei anche quindi spiegare. Un anno insomma, c'erano ancora le vecchie però norme, però ho versato i contributi per i 5 anni come prevedeva la legge, e prima di fare il consigliere regionale, perché questo va spiegato, non sottrae poi dalla responsabilità di una discussione su quello che appare un privilegio. Dall'85 al 96 ho fatto l'amministratore locale eletto dai cittadini, senza un euro di contributo. Cioè, questo va spiegato, cioè come nasce anche questa, diciamo, questo privilegio, comunque questo diritto al vitalizio dalla Costituzione, il parlamentare e il consigliere. Sì, una volta, quando la politica era una cosa più seria, fatemelo dire, prima di arrivare in regione o in Parlamento, se facevi 15-20 anni di amministratore, di amministrativa, adesso dove, invece, dove adesso non invece prendi un euro di contributo, cioè io laureato, ho avuto la fortuna, la bravura, il consenso di essere eletto nelle istituzioni anche importanti come Regione e Parlamento a 30 anni, ho sacrificato, ne sono contento, orgoglioso, perché ho fatto per me la politica, come sapete, mi conoscete, è un grande elemento di passione civile e lo è tuttora. Però ho sacrificato, facendo una scelta, anche la mia attività lavorativa. Ah no, vabbè, ma questo però c'entro, lo dicono un po' tutti, non è un obbligo, no, è una scelta che ha fatto. Lo dico perché, ma infatti sono orgoglioso, non chiedo niente a nessuno, io godo di una norma fatta peraltro non da me, paradossalmente, Che il governo Monti ha poi ribadito, perché ovviamente ha fatto i conti con una serie di vincoli che ci sono, anche quando il governo Monti nel 2011 fece la riforma e il taglio dei vitalizi delle regioni, ha garantito che chi già lo prendeva, come era il caso del sottoscritto e tanti altri, ovviamente quella norma era intoccabile, a torto o ragione, ma ora è una disquisizione giuridica, e quindi io godo. E quindi è questo. Io le parlo a proposito di un giorno, poi mi taccio. Sì. Io in Parlamento, con tre legislature, secondo le norme, quando io sono entrato in Parlamento... Perché cumula con quello anche. No, ma non la prendo, io adesso non prendo vitalizio in Parlamento. Lo prenderà, perché? Tre legislature? No, lo spiego, adesso no, io in questo momento non lo prendo, ma per spiegare come a volte anche chi fa politica poi gode anche delle stesse beffe del cittadino normale, di chi non la fa. Io ero arrivato a 6 mesi. A 49 anni e mezzo mi tolgono il vitalizio che non prendevo, che avrei dovuto prendere dopo 6 mesi dal Parlamento, e me lo spostano a 60 anni. Questo per dire che a volte lo prenderà a 60 anni. La data di nascita vale anche per i parlamentari. Detto questo, 100. Sono disponibile a una discussione. Ma è chiaro. Dare anche l'apprezzamento alla battaglia fatta dal Movimento 5 Stelle di trasparenza. Questo sì, 100. Ma che dobbiamo fare? Noi in realtà approfondiremo. Ogni giorno ne parliamo un po'. Intanto goda per la Roma, su, li avete purgati, almeno io da milanista glielo dico, almeno godo, sì, ieri ho goduto, ho goduto. Si può dire, si può dire ho goduto un po' anch'io. Tanto la ringrazio, Valentina. Grazie. Corrado è qua, dobbiamo chiudere intanto. Posso dire soltanto una cosa, mi ha fatto piacere ascoltare dal signor Cento, per un anno di legislatura in regione prende 2.500 euro circa di vitalizio. Mi chiedo, un cittadino che ha lavorato un anno quanto prende? Dicendo, e però visto ho pagato, che ha sacrificato la carriera, i cittadini sacrificano le persone che non arrivano a fine mese, sacrificano la famiglia, non la carriera. È chiaro, io Corrado, per concludere questo discorso, intanto la ringrazio, le chiedo anche se questa lista è pubblica, lei l'ha resa pubblica questa lista? Il Movimento 5 Stelle? L'abbiamo pubblicata sul nostro sito latte5stelle.it. Adesso la andiamo a prendere, la mettiamo anche sul nostro sito, su Radio 24 da oggi. Però quello che voglio dire è che è una situazione talmente per alcuni versi indifendibile, che io almeno in queste situazioni difendo, ringrazio le persone che ci mettono la faccia, ecco, capisce? Quelle che vengono a dire, a spiegare, almeno vengono, non si sottraggono, diciamo, a una spiegazione, perché poi non è che sono privilegiati, ma non è che se lo sono fatto da solo, se lo sono ritrovati, è un privilegio, è un ternallotto che hanno vinto. Comunque io vi ringrazio, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi cambiamo tema nell'ultima parte di 24 mattino. 24 mattino. Allora, le 8:48 minuti, l'ultima parte di 24 mattino, per la quale voglio salutare il membro del consiglio di amministrazione della RAI, Luisa Todini. Buongiorno e benvenuta, ben ritrovata, Todini. Buongiorno a voi, allora, buongiorno alle telespettatori. Perché ci sono tante. Stavo dicendo ai telespettatori. Ai nostri radioascoltatori. Senta, ci sono notizie della RAI, soprattutto anche oggi. Il ministro Zanonato replica su queste indiscrezioni che da ieri ci sono su Repubblica. Repubblica, e vorrei partire da qui, sulla possibilità che il Consiglio di Amministrazione, che la RAI come istituto, come azienda, possa ricorrere al TAR, perché quest'anno, lo sapete, il Ministero ha deciso di non adeguare il canone della RAI, che è a 113,50 euro, non adeguarlo come prevede la legge Gasparri. E allora, è vero intanto questa indiscrezione? State discutendo di questo? Ma assolutamente sì, ma è doveroso. Ora lasciamo, dimentichiamoci che la RAI è di tutti i cittadini, che pagano il canone, che è servizio pubblico e altro. La RAI è un SPA, una società per azioni di capitali, in cui si investono capitali che devono essere remunerati. È doveroso, quando in qualche modo non si segue la legge che lei ha nominato, la legge Gasparri, che può essere discutibile o meno, ma è la legge vigente che prevede un adeguamento del canone, e questo non si fa. Ora il ministro potrà rispondere come vuole, con tutto il rispetto per il ministro Zanonato, ma per noi è doveroso valutare se ci sono gli estremi e la possibilità, che molto probabilmente ci sono, per fare il ricorso. Quindi secondo lei ci sono questi estremi, cioè c'è la possibilità concreta che la RAI porti davanti al TAR, faccia un ricorso contro un suo azionista, il ministero? Il ministro. No, scusi, non è l'azionista, è il MEF, è il tesoro, sì. Voglio dire. Sì, però, stiamo parlando dello sviluppo economico, sì. La nostra azione eventualmente è contro lo sviluppo economico, ok? Con cui c'è. E secondo lei è un'azione che è ben motivata? Ma lo stiamo valutando, abbiamo i nostri legali che lo stanno valutando. L'ultima seduta della scorsa settimana del Consiglio di Amministrazione ha preso questa decisione di valutare, ma le ripeto, è doveroso per un'azienda, perché quando non viene seguita la legge, non viene infranta la legge, poi dopo possiamo aprire tutte le argomentazioni su canone sì, canone no, pubblicità o altro, sì, però questi però sono argomenti di altro genere. Però, la legge è quella. Sa, oggi il ministro Zanonato, intervistato da Repubblica, dice è giusto bloccare l'imposta perché è un segnale di tregua alle famiglie in questo momento, e quindi dice, e tra l'altro dice, non temo assolutamente una causa della RAI. Guardi, mi perdoni, la demagogia, cioè con tutto il rispetto veramente per il Ministero, in particolar modo per il Ministro Zanonato, la demagogia in questi casi non aiuta nessuno. Allora, se la legge c'è, la legge deve essere seguita, perché la RAI è un'azienda che ha fatto un budget triennale che immagina di portare l'azienda in pareggio. Quest'anno ovviamente il venir meno del canone in qualche modo rischia di inficiare questo budget. E cosa inficia? Gli investimenti, gli stipendi, gli investimenti previsti sul capitale umano e su quelle che sono le modernizzazioni delle nostre reti, in particolar modo sulla digitalizzazione, che abbiamo iniziato in maniera molto importante, sì, con una decisione unanime del Consiglio di Amministrazione. Ora, fare demagogia su questo non serve, perché se noi facciamo causa e la causa viene vinta, come noi, se faremo causa immaginiamo di aver ragione, lo Stato rischia di pagare molto di più. Esatto, che è che dovrebbero, però vuol dire che i cittadini dovrebbero l'evasione. Su questo, guardi, sull'evasione Zanonato dice, ecco, sono pronto invece a mettere in atto degli elementi concreti per combattere i 450 milioni stimati di evasione del canone. Benissimo. Siamo tutti super pronti, ma non possiamo andare a colpire il canone perché in qualche modo non si riesce a l'evasione, cioè capisce che non si possono le due cose. Sicuramente se facciamo un sondaggio il 99,9% dei cittadini, così le danno ragione al ministro, ma è molto facile da questo punto di vista, perché ti faccio pagare meno la tassa sulla televisione. Il canone è una tassa odiatissima, sappiamo che è un'imposta odiatissima da parte dei cittadini, però ogni volta che prendiamo il meraviglioso oggetto democratico che è il telecomando e accendiamo la televisione e vediamo un programma con scritto RAI, ricordiamoci che abbiamo 14 canali oltre ai canali delle radio e tutte le edizioni regionali, stiamo facendo servizio pubblico, e dietro quello ci sono milioni e milioni di euro che vengono spesi per il cittadino. Poi senta, il canone attualmente è 113,50 euro, se ci fosse stato l'adeguamento alla legge Gasparri quanto sarebbe stato? Perdiamo un euro e mezzo più o meno, quindi sarebbe 115 euro. E se dovesse esserci una causa è vinta, cioè gli italiani devono anche pagare questo 1,50 euro in più? Beh, in qualche modo è lo Stato che deve pagare, ma guardi, è lo Stato poi che dovrà pagare la RAI, che la RAI riutilizzerà a favore dei cittadini, quindi da questo punto di vista non voglio preoccupare i cittadini, che sono già vessati, e in questo do ragionissimo. Se paga lo Stato, però lo Stato poi chiederà ai cittadini l'anno prossimo questo euro 50 indietro. Mi auguro che tutto questo si possa in qualche modo veramente recuperare dell'evasione fiscale. Le parla una persona che a livello aziendale in Italia ha un tax rate, lo spieghiamo cosa significa, cioè il totale delle tasse che paga la mia azienda in Italia sfiora il 70%, quindi le sta parlando una persona che ogni giorno versa lacrime sulle tasse che paga a questo Stato, ma che continua a lavorare in Italia e ad investire in Italia, perché continua a credere che possiamo e dobbiamo farcela. Certo che se vengono cambiate le leggi e un'azienda come la RAI, in cui io siedo per una sorta di volontariato, se vuole chiamiamolo così, no? Cioè, non è il mio mestiere principale, insomma, però lo faccio con grande spirito di servizio. Un'azienda che si chiama SPA deve ragionare come un SPA, questo quindi deve chiudere il bilancio in positivo. Le faccio quest'ultima domanda, sì. Todini, e cioè abbiamo un minuto per chiudere. È giusto secondo lei chiedere a Sky e ottenere da Sky le liste degli abbonati per vedere le sacche di evasione del canone? Guardi, qui c'è la privacy, c'è tutto. Cioè, io credo che sia fondamentale una collaborazione tra tutti i broadcast, che siano pubblici o che siano privati, per combattere questa che è la vera piaga italiana, che è una piaga culturale. Però a Sky cosa ce ne guadagnerebbe Sky? Cioè, che gli frega, diciamo, a Sky di combattere una cosa che è specificamente della Rai e dandovi la lista degli abbonati? Che... Guardi, secondo me troveremo un approccio positivo in questo e troveremo una forma di collaborazione. Se Sky lavora in Italia, se Sky dà da lavorare ai cittadini italiani, anche loro hanno il dovere di preoccuparsi di tutto questo, perché sicuramente l'evasione incide su qualsiasi tipo di attività produttiva, questo che sia pubblico che sia provata in Italia. Va bene, la ringrazio per essere stata con noi. Luisa Todini, membro del CDA della RAI, grazie davvero. Questa vicenda, insomma, la seguiremo, perché vedremo se davvero si arriverà a una causa da parte della RAI e una valutazione che sta facendo il Consiglio di amministrazione, di cui anche lei fa parte, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico per l'aumento del canone, l'adeguamento previsto dalla legge Gasparri, che quest'anno è stato bloccato, ricordiamo, dal ministro Zanonato. Allora ci fermiamo qui, grazie a tutti. Miriam Lucchetti in redazione con Alessandro Marcotulli e Elisabetta Fusconi, e il nostro Carmelo Lauricella in regia, che fa ciao ciao con la manina, oppure chiudi, boh, non ho capito, credo la seconda, chiudi. E allora ci sentiamo domani alle 6:30.